Hola, hola, hola. Sono il Loci, sì. E te, UFO, capito, sì. Tu che non mi cassi. Camari. Accendi la 27. Va bene. Cosa hai detto? No, ne voglio entrarmene dentro in camera adesso. Ma che è io? Va bene, già sono qua. E mettici una prunica. Sì, adesso che va proprio Natale, se mi porta un portatile per Natale. Che ti porta? Un portatile per la 27. Oh, comunque di chissà cosa, la metà per venerdì prossimo. Ma di che però, non te ne aggiungi tu tre? E cosa hanno aggiunto? Rimanda e dimmi il polizio. E guarda, te l'ho mandato. Eia. Sì. Adami così. E io. Ho capito, no? E lui. Così. Non mi tassi. Ma non mi tassi, già Marì. Perché non li conosci? Ma è mangiato da parte mia, cosa? Non devo andare, un amico mi porta a lui un po'. Da... Non so quando andiamo, forse andiamo dopo e facciamo quella volo là. Mi organizza e vado. Fate vicino, che ce ne sta un po', che ce ne sono un bel. Luca ti ha mandato un messaggio. E dove? Non a te, a Luca Gruppo Flipper. Arrivato ti è Gruppo Flipper Gruppo. Buona la torta, eh. L'abbiamo fatta quando, Mari? Ieri. No. L'abbiamo fatta venerdì, ma oggi è, guarda, uno spettacolo buonissimo. Tutti i sapori si sentono. E beh, ha passato ed è più buona, non lo sai, bello bene. E beh. Flipper Gruppo, capito mi hai? Sì, dammi tu. E beh, lui. Cosa stai facendo lui? Comicando stai. E beh, mi te l'ho mandato scritto. Cosa? A Luca Gruppo Flipper. Luca! Ma tutta la torta si stai mangiando. Accendi la 27 che c'è Tore. Cosa? A me stai dicendo grazie. E beh, chi sta mangiando la torta? Tu? No, sta preparando gli asparagi, grazie. Cosa hai fatto asparagi? Cosa? Cosa hai fatto gli asparagi? Ah! Luca, cosa stai contando gli asparagi? E beh, perso ti sei in mezzo a Rabbanelli. Luca, ma stai premangiando? Grazie. E non ne mangiare più torta, bello bene. Sì, te la dico, non ne più. Un piranha, sì. E allora? C'è il Tore, Babbo Galli, la parola, non deve bugni, se no non risponde. Signor Tore, c'è signor Tore? Vai alla 27, alzati prima la domenica, bello bene. Bacchi, già sono qua, aspetta un attimo, grazie. Bacchi, parla. Come mi ascolti, sto provando questo cavolo di spezzone di filo che ho costruito. Sto provando su uno spezzone, tu? Sì, stai arrivando bene, stai arrivando. Perfetta. Segnale buono. Chi è da Graziano? Già ti sento con le orecchie, bello bene. Pensavo mi sentivi coi piedi. Già ti sento, già va bene, va bene. Cos'hai fatto il pippollo? Ma non è un pollo, un pezzo di cosa, collegare il rosmetro alla radio. Siccome andava in corda, l'ho rifatto e sembra che funzioni bene. Bravo, 10 più, contento sì. Sicuro sono contento, sto contento sì. A voglia. Grazie, ha detto contento sì, e più. E la 27 non ce l'hai acceso, ma. No, adesso l'accendo. Adesso accendo 27 e poi faccio anche 28. Vabbè, ma chi? Fai. Un attimino di quelli che mi ritiro i ferri da mezzo ai piedi e poi torno qua, in 27. Eia. Ok, Bacchi, va benissimo. Andà bene, vela. Andà bene. E questo spezzone che ho fatto mi dà un bel risultato. Prima c'avevo un mucchio stazionario, adesso nulla. 1.02. Già va benissimo, sì, già va benissimo, va. E magari vuole attaccata, messa per terra è così, però attaccata a un tubo o uscirà 1.01. Ehi, dai, ce la sentiamo. Aspetta che vado a ritirare i ferri, poi ritorno qua. Riprendi, torna e passo in 27 poi, Sì, ok, Bacchi, va benissimo. Ah, se passo in 27 passo. Sto facendo, riapro.